Nella premedì sono un po' intontito, sogno ad occhi aperti la notte, non ho dormito. Abbaiano i cani, sentono che l'ho ingerito. L'ovulo di rabbia, smiling people. Pompate pompini, puttane partiti. Districarsi da indiscreti e lobby dei lobbini. Bamba dalla pampa dentro pampers nelle banche. Politici piselli piccoli più defaianze. Ponti su punti di penisole puntate. Secondo le correnti ci saranno le puntate. Punto primo paghi caro, punto due paghi in denaro. Punto tre tremendo se superfluo da elencare. Parli di parole, sì che tu sei uomo. Dammi le tre parole, un Kalashnikov nuovo. Tra i motivi della vita c'è la morte. Chiudo le mie barre come le bare per la corte. Pronto? Chi è? La milizia. Chi? È la milizia. Ma che cazzo è? La milizia. Che? È la milizia. Ma chi c'è oggi? La milizia. Eh? È la milizia. Ma che cazzo volete? Noi vogliamo la milizia, milizia. È uno show, benvenute signorine, cosce aperte. Troppo borghese, giù le Nike, falle verde. Da quando in piazza la gente non è più al verde. La sinfonia di un flauto sputa perle su perle. Stay away, ti strozzi col tuo snake. Rappi bene, cosa canti, dragostea di intel. Ghiaccia rec, dopo play, dopo fai delay. Sono il best di Torino a fare in culo i tuoi mixtape. Sto sul campo come il pipete. Oro la mia voce, gratta il beat come impulso sonoro. Niente fit, pubblicità noi fuori dal coro. Tu, come i segaioli, fai tutto. Solo c'ho più stile che peluche nelle room delle gruppi. Vivi da boss nel tuo club di rifiuti. Spacci champagne, mani flute, bevi sputi. Noi stalloni puri, voi sballoni muti. Pronto? Chi è? La milizia. Chi? È la milizia. Ma che cazzo è? La milizia. Che? È la milizia. Ma chi c'è oggi? La milizia. Eh? È la milizia. Ma che cazzo volete? Noi vogliamo la milizia, milizia. Etanolo come antimateria nello spazio. Programmi di rivolta peggio di Savia e Fazio. Muovi la città a tuo piacere, non farlo. Cercare di cambiare il mondo poi ti rendo ostaggio. Coraggio, vieni anche tu. Noi balliamo tutta notte fra i misteri e Belzebù. Noi siamo quelli giustizialisti. Beviamo e da piccoli guardavamo gli ciachismi. Ultimamente caghi troppa politica. Ma fino all'anno scorso la tua mente era stitica. Ultimamente caghi troppa politica. Ascolta la lezione che dopo c'è la verità. Ma